Questa è la puntata zero di un programma trasmesso da Radio Big World. Il relatore, che sono io, è una persona che si chiama Pasquale, addosso qualche primavera, e vorrebbe stare insieme a voi che ascoltate per riflettere, per analizzare, anche per disquisire, per discutere su come nella società di oggi si può vedere un simbolo che è un bicchiere dove dentro c'è acqua e vino, che non ha più il colore dell'acqua e che non ha più neppure il colore del vino, ma è qualcosa di nuovo. E acqua e vino significa opportunità di mescolarsi con gli altri per ottenere qualcosa di nuovo che noi cercheremo di far diventare qualcosa di interessante. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiremo prossimamente. Buona giornata.